Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Vola 10, prego. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Vola canale 10, prego. Gianni. Poi Carlo, e allora? Ora mi è casalingo. A forza di Maragana. Perché sono in orario che possa passare la visita. Ah sì, è la visita fiscale. Mi stamattina lì ce n'era una che ce l'ha andata e l'avevamo provata. E doveva fare la visita dall'equipe medica. Perché sono rotture di scatole. Vabbè, ma questa qua c'aveva il foglio dell'ospedale, si è sentita male, l'hanno portata all'ospedale, aveva il foglio dell'ospedale, quindi era giustificata. Tipo io domani c'ho la visita di controllo, domani sera, e quindi se per caso passano, anche se l'ultimo giorno, già c'ho la visita dal medico, per cui mi può giustificare lui. Guarda che gli ultimi giorni sono proprio i giorni che passano, io lo so per esperienza. A me mi è venuto a controllarmi l'ultimo giorno e me ne ha dato altri 15 giorni, perché mi ero praticamente fratturato il coccige, praticamente la codina della spina dorsale. Ah, non ti sei fatto mancare niente tu nella tua vita, eh? Beh, sono andato da questo amico mio che stava facendo la casa e intanto il vino l'aveva già fatto, in cantina c'erano già le butti, tutto quanto, e mi stava facendo vedere la parte di sopra, però non mi ha avvisato che mancava una pignata sopra, era in grezzo, e praticamente io ci sono sceso con una gamba e ho sbattuto, meno male che non ci sono sceso giù. Meno male che ti è andata bene. E ti parlo di tempo fa, è venuta questa dottoressa a farmi il controllo, no? E mi ha detto, chi meglio di me la può capire, l'ho avuto anche io la stessa cosa, c'ha la ciambella, sì, mi ripercuote nella spina dorsale, non posso destarnutire, mi ha detto sì, niente. E mi ha detto, sì, va bene, me ne sto andando altri 15 giorni. Se te li dà vuol dire non ti regalano niente, che ci volevano. Sì, e io un dolore anche quello è confortabile, non ti puoi sedere, ci vuole la ciambella per sederti, capito? Perché se tocca appena appena, allora io da Canica, dove è successo, sino a Sassari, ho guidato, credimi, di lato, cioè praticamente io non appoggiavo il sedere, ma sulla cuscia, capito? Stavo guidando così, piano piano sono tornato a casa, e sono svenuto. Insomma, cose fastidiose che poi ci vuole tempo perché passi, no? Sembra così una fesseria, però ti ripercuote su tutta la spina dorsale, ti fa vedere il dolore su tutta la spina dorsale. Non c'è nessun altro stasera, io ho acceso poco fa e ti ho sentito prima quando hai chiamato, ma ero nell'altra stanza. No, io non ho sentito nessuno e ho attaccato questo apparecchio che ho da molto senza usare. Come sta andando? Ne stai uscendo bene con la tua voce, sempre uguale, segnale qua a fondo scala, niente da ricriminare, diciamo, è una bella radio. Qual è? Questo qua è la stazione base Intec, c'ha bande laterali, c'ha 40 canali su ogni banda, c'ha AM, FM e le bande laterali, è bellissima come radio, è tutta la parte di davanti tutta quanta azzurra, gli strumenti azzurri, c'ha anche il canale con la frequenza a fianco. E già la conosco, ho capito qual è. Io sto uscendo con un watt, come ti sto arrivando? Benissimo, sempre bene, sei 9,15, dai, vai molto bene. Io sto uscendo con 3 watt invece, con 3, questo qui c'è con 3 watt, però volendo puoi cambiare il wattaggio, capito? Anche nella mia, ma io sto usando pochi watt perché praticamente uno dell'ultimo piano e uno del primo piano mi hanno detto che gli stavo entrando nelle casse del computer. Cazzarola. Non attaccare il watt allora, perché sennò poi ti danno problemi. No, questa antenna qua, grazie a Dio, non disturba nulla. Io ho attaccato anche 300, ma non disturba. Questa cosa me l'hanno detta una settimana fa circa, però non è che che io uso tanti watt, capito? Però dal momento che in questa radio si possono abbassare, li regolo a 1, tanto per la città a Voglia già mi sentono bene. Ma com'è possibile? Ma l'antenna è lontana dall'antenna TV? Le casse del computer, non della TV, casse del computer, di quelle casse vecchie che si collegano con gli spinottini da 3,5. No vabbè, ma quello lì non ti fanno nulla, nel computer cioè hai solo rogne con i condomini, ma per legge non ti fanno niente, non devi entrare nei televisori, nei telefoni, quello lì sì, però per il computer non penso che ti facciano niente. No, infatti, cioè il problema è loro che hanno delle casse vecchie, quelle, perché io per esempio ho collegato al televisore, no, ho una sound bar collegata col cavo, provo a modulare anche con, mettendoci anche 100 watt, no, non entro in nessuna cassa a casa mia, addirittura anche una di quelle cassette piccoline Bluetooth, ho provato a metterla vicino alla radio, niente, non entra niente, sicuramente sono le vecchie casse, capito, quelle di una volta, quelle a torretta, roba di quasi di cineseria. E ci assorbono tutte le impurità, sì. Vabbè, ma sempre per questo vivere uno cerca sempre di adattarsi. Dai. Infatti, poi non è che questi staranno sempre con le casse del computer a ascoltare, no? Quindi, poi infatti qualcuno mi ha detto, tanto disturbi perché è solo la M, però non so se lo disturbo anche con le altre bande, tipo banda laterale, eccetera, capito? Con quella esci con più watt. No, l'FM non dovrebbe disturbare perché è molto lontana come frequenza. Vabbè, comunque, nel senso che disturbi, sì, che fosse un televisore, il televisore non lo disturbi, però le casse non lo so, siamo sempre lì. Sì che si tratta di televisore, in FM non disturbi, nemmeno in banda laterale, però bisogna vedere il perché entrano quelle casse lì, forse non sono schermate, non lo so. E sono casse lì, perché gliel'ho chiesto a questo qua, no? Siccome so che è uno che non è che cambia molto, magari si è cambiato la base principale del computer, però ha lasciato il vecchio monitor, capito, eccetera, le casse vecchie, le casse di una volta facevano quel problema lì. No, io c'ho nel computer, c'ho praticamente le casse con il subwoofer e le due casse là, non ho mai sentito niente di diverso da quello che io metto. No, assolutamente, non mi hanno mai disturbato nessuno, eppure vicino a casa prima ce n'erano e non mi disturbava, addirittura c'era l'attore che era a fianco a me eppure non mi disturbava. Evidentemente sono casse di un'altra generazione, capito? Tu la musica insomma già la conosci, le utilizzi quelle cose, mi sa che mi avevi detto che c'hai anche le karaoke, per cui non sarà la prima volta che le usi. Io idem, io ce le ho collegate al televisore, capito, disturbo non me ne crea. Un tempo anche io avevo le classiche casse laterali, quelle a torretta che mettevi, che avevano i piedistallo piccolini, mi capito, sotto, le mettevi a fianco al monitor, una da una parte e una dall'altra. Quel tipo di casse lì prendevano tutti i disturbi possibili e immaginabili. Anch'io c'ho quelle lì, c'ho le trust, esattamente, nel computer. Non mi danno nessun problema, ti dico la verità. C'ho quelle lì a torretta e poi c'ho il subwoofer che è bello massiccio con l'amplificatore. È un subwoofer amplificato che dà un buon suono. Infatti io sia dal computer, sia dal karaoke professionale, sia anche dalla cassa amplificata posso fare karaoke, da tutte e tre. C'è la cassa amplificata che tu praticamente puoi cantare anche senza filo perché va con Bluetooth e se voglio posso ascoltarmi quando io canto praticamente quel programma, non so se ti ho detto che canto su StarMaker, e per risentirmi, per riascoltarmi le canzoni metto il Bluetooth e me le riascolto con la cassa grande, capito? Davvero? Davvero. Ciao. Sì Gianni, però se tu mi dici che già c'hanno Bluetooth e poi le trust sono abbastanza recenti, quindi penso che quelle non ne prendano di disturbi. Vabbè, comunque a me passare qua, già sono in regola, se mi mandano qualcuno, prego, accomodatevi, ne ho tolto quello che dovevo togliere e adesso sono in regola. Ma infatti. È solo che per sempre per il quieto vivere si cerca sempre di andare incontro e non avere problemi. Avanti, buonasera. Vabbè. C'era qualcuno che voleva entrare? Sì, mi è sembrato Luca, che a me, forse non lo so, ho sentito anch'io qualcuno, davvero, ha detto, però qui. Ma è possibile che ho visto su internet questo rifornitore che parla di sassarese, buone la benzina, vai sulla colonnina numero 2, hai zitta un attimino, non lo so se è qualche cosa che hanno fatto, però è troppo forte, sembra che sia un robot che parla. Sicuramente qualche cosa che hanno modificato, qualche video, sono tremendi. Fa ridere perché tipo ciao dai ma di sta tranquillo, se no ti piglia ciaffi, una cosa del genere. E lui dice, aspetta, calma. Già, mi sa che l'avevo sentito anch'io, qualcuno che ne parlava qualche settimana fa. È forte, è troppo forte, che tutta la sassarese, è solo che se viene qualcuno da fuori, se è veramente così, non comprendi nulla. C'è qualcuno che vuole entrare sul 10. No, Luca ha dato la frecciatina e se ne è andato. Magari sta lavorando, facendo qualcosa. Vabbè, non dà bene. Comunque, Carlo, anche io ho avuto problemi, all'inizio ho sopportato, stavo per togliere tutto, mi stavano facendo la guerra qua, c'era quello del palazzo di fronte che mi sentiva nel telefono, praticamente io ho un amico che lavora alla Telecom, lavora ancora, è uno di quelli che praticamente organizza i lavori, manda gli operai, mi ha detto ascolti, lo mando l'operaio, gli dico che c'è un'interruzione della linea, perché io avrei detto che telefonava e lui mi ha detto un cordless, e ho detto ma dove l'ha preso? E l'avevo preso, allora ti ricordi che i marocchini vendevano quei cordless, si è preso uno di quei cordless lì, e praticamente questo amico mio glielo voleva mandare, dicendo che c'era un guasto della linea che doveva cambiare il telefono, che lo davano loro in donazione, proprio lo davano loro, e non ho voluto io perché questo mi ha preso a parolacce, poi ha fatto bigliettini e li ha messi in tutti i portoni di vicino a casa dicendo che disturbavo quello di... ha messo l'indirizzo quel signore che è al baracchino che disturba il mio telefono, cioè se dove sta le scomposte, questo e quell'altro, poi ha fatto l'articolo sul giornale e si è firmato la rosa rossa, non si è firmato manco col nome suo, capito? Ha fatto questo articolo dicendo che veniva disturbato eccetera, poi arrivavo con la macchina da lavorare e mi illuminavano con una pila potente per vedere se stavo parlando, scendevo dalla macchina e me ne dicevano tutti i colori, mi sta disturbando coglione, questo e quell'altro, e un giorno gli ho detto asco fa una cosa, scendi giù se c'è il coraggio, invece di dirlo dalla finestra, perché non scendi giù, gli ho detto merdoso, e praticamente non gliel'ho fatto cambiare questo telefono qua, e poi ha fatto la fine che ha fatto, bovaraccio, era un esaurito, purtroppo ha fatto una fine brutta, si è impiccato dove insegnava a scuola, quindi era una persona, era infelice, non sapeva dove attaccarsi. Ci sono quelle persone così, niente, e quindi io spero che abbassando i watt di risolvere il problema per adesso, poi prima o poi non se le cambieranno anche loro queste casse, se poi ci sono problemi, insomma, delle casse nuove si possono anche comprare, capito? Se arriva un compromesso a dire io sono in regola, dall'antenna alla radio e tutta la strumentazione che ho, per cui chi prende queste interferenze vuol dire che usa delle cose diciamo datate, che non hanno nessun filtro e nessuna protezione, prendono tutte le interferenze possibili, perché qua attorno al palazzo abbiamo tutti i ripetitori, c'è la palazzina della Telecom e siamo pieni in questa via dove sono io, c'è un altro palazzo giù, lo stesso hanno messo le antenne e tutto quanto, siamo circondati da antenne. Perché anche vicino a casa no, c'è il ripetitore addirittura, c'è un ripetitore altissimo vicino a casa. Non so se mi sei mai passato la strada che porta dal monte su verso via Mores, quella zona lì. C'è quel ripetitore enorme, in più sui palazzi è pieno di ripetitori. Per cui da quando hanno messo questi ripetitori, io non so se sia un caso, io in casa non riesco a prendere la linea bene, o mi si interrompe o esco a tratti, esco robotizzato. Ho cambiato il telefono pensando che fosse quello, ci ho speso altri soldi e non è quello, lo fa anche con questo telefono. Io ho anche un cordless telefono di casa, no, che non lo uso, ho provato a riattaccarlo, a provare proprio se mentre trasmettevo, se collegato col mio cellulare, se entravo, niente da fare. È un Panasonic, quelle cordless che ho io, l'avevo preso qualche anno fa, quindi è nuovo, non prende nessuna interferenza. Sicuramente sono quelle casse lì, perché è uno di questi che me l'ha detto, che è una bravissima persona, comunque non mi crea problemi, nel senso me l'ha semplicemente detto, perché riconosco la voce, quindi dice la sentivo sulle casse del computer, che stava, non so, sentendo la radio lì, qualche partita al computer, e quindi ho detto vabbè, vediamo se riesco a fare qualcosa. Sì, anche io ce l'ho il codere su Panasonic, però lo uso, lo tengo attivo, e vanno bene, sembra un cellulare il mio addirittura. Esatto, allora è tipo il mio, c'ha la sua basetta, se poi lo perdi schiacci il bottoncino e te lo fa squillare magari in mezzo al divano. Sì, ma io solitamente faccio così, dopo che lo uso lo rimetto sulla base, di modo che poi non mi dimentichi dove l'ho messo. Ma lo uso molto poco, sai, tipo fare il numero dell'Inps non si può fare dal cellulare, si deve fare per forza dal telefono di casa. Fare altri numeri, tipo questi enti qua, è difficile, già che non ti rispondono mai. Poi anche quello dell'ospedale, del policlinico, non si può fare. È tutto un casotto. Ci sono dei numeri che sono praticamente annullati proprio dal cellulare. Sì, lo so Gianni, anche io lo uso solo in quei casi, però per la maggior parte delle volte è proprio staccata anche la base, la stacco, perché dico a che cosa, non lo usiamo mai, quando serve lo tiro fuori dal mobiletto sotto il televisore e lo collego. Ma no, io ce l'ho sotto attaccato invece, vabbè, comunque mi fa luce anche la notte, perché quella spia che c'ha illumina, la notte non accendo ma quella luce, si vede con quella spia, è molto luminosa, va. E niente, comunque vabbè, oggi ho fatto un'altra visita, oggi era l'Inps. Domani sera devo andare alla visita di controllo, mi ha chiamato il medico, gli ho detto per me sta andando tutto bene, però mi dica lei quando mi può vedere, così. Allora mi aveva dato l'appuntamento per domani sera, e domani sera ci faccio un salto e così mi vede, e è meglio che dica lui piuttosto che io. È meglio che ti veda lui, tu non ti vedi, di capito? Meglio che ti vedano loro. Comunque, dai, già interessante che passi, già passa, dai. Sarà una cosa sofferente anche quella? Eh sì, ma non più di tanto, dai, non mi ha dato molti problemi, anche perché mi ha dato gli antidolorifici, per cui poco e niente. Più che altro la rottura di palle, stare chiuso a casa, che è legato a questi orari che eventualmente ti passano le visite di controllo, capito? E sei come in galera. A me lo stai dicendo, io sono dal divano a letto, faccio due passi e subito dolori atroci, non ho potuto camminare. E oggi all'Ips mi hanno fatto una domanda, mi scusi, ma lei, qua c'è scritto che si è presentato a visita con una stampella, adesso perché ne ha due? Ha detto perché la seconda volta che sono andato, per fare diciamo il pre-ricovero, l'ortopedico mi ha detto no, ne deve mettere due di stampelle, non una sola. E poi la sta mettendo al lato sbagliato, perché la stampella non si mette dalla parte che gli fa male, ma si mette dall'altra. Capito? Esatto, e se sbagli la postura poi ti fa male di più. Se ti ha detto di usarne due, usane due. Ma infatti, addirittura hanno voluto potuto vedere la ferita che c'avevo dell'altra operazione che ho fatto all'altra gamba. Mi ha fatto abbassare i pantaloni, mi ha controllato la muscolatura e la ferita. Sì, controllano tutto. Ancora tanta gente c'è in quella sala dove ti fanno aspettare. Tanto, ce n'era, ma non più di tanto, Carlo. Saranno state una quindicina di persone, dai. Perché lì ci sono le visite per appuntamento, capito? Più di un certo numero di visite al giorno non li danno gli appuntamenti, capito? Tanti. E io ce l'avevo alle 9 l'appuntamento, però chiamavano anche quelli che sono venuti dopo di me, perché chiamano per ambulatorio. Infatti ho detto, guarda che numero quello che c'ho prima, non conta niente quello lì, dipende dall'ambulatorio, mi ha detto. Vabbè, ok, aspetto allora. E me ne sono andato verso le 10 così, alle 9, alle 10. Sì, esatto, già ho capito dov'è, perché ci avevo accompagnato mia suocera lì in quella saletta in fondo dove ci sono gli ambulatori. Infatti anche noi avevamo un orario eccetera, passava gente che era venuta dopo e ci avevano spiegato la stessa cosa. A voi ridere? Dimmi. Allora, mi è venuta voglia di andare in bagno e ho chiesto dove erano i bagni, me l'hanno indicato. Sono andato in bagno, era tutto buio, completamente buio. Io ho visto l'interruttore, ho premuto l'interruttore, cavolo, non era l'allarme. Sono arrivati tutti i vigilanti, c'è la signorina che c'era lì, tutti quanti correndo verso il bagno, bussandomi la porta. È successo qualcosa, sta bene. E sarà per il risparmio energetico che hanno spento tutto, però uno come fa il buio in bagno? Allora, praticamente il bagno è quello per gli uomini, è solo quello per handicappati, praticamente sia persone normali che handicappati vanno nello stesso bagno. E ci sono tutti i tasti bassi, compreso quello per lo sciacquone, sono tutti bassi. Io ho visto questo tasto e l'ho premuto, cioè non sapendo, però poi accendendo la luce in effetti c'era scritto nel coso allarme, capito? Però al buio mica l'ho visto. Come facevi? Tu sei anche alto, per cui ti è andato bene schiacciare quello in alto, ma non è un problema, credo. No, sono tutti corsi, solo mi hanno bussato a porta. Se ci ha fatto spaventare. Vabbè, capita. In allarme è tutto l'Inps a Giubus. Ogni tanto già ci vuole anche allora farli lavorare un po'. Ecco, breco di passaggio. Anti. Oh, ciao Carlo e ciao Gianni. Ciao Massimiliano, ben sentito, buonasera. Massimiliano, buonasera. Kappa. Dai, ero di passaggio, ho detto, adesso entro a salutarli. Kappa, adesso sta rientrando. Sono rientrato una mezz'oretta, nel tempo di farmi una doccettina, veloce, là. E poi ho acceso un attimino dopo qualche mese forse. E poi mi qua ogni tanto a fare quattro chiacchiere quando è possibile. Rimetto, in sesto. Forse avete parlato in due. Detto che noi siamo, non dico tutti i giorni, ma quando possiamo quattro chiacchiere ce le facciamo. Lo so, però quando arrivi a casa che sei sveglio da presto, voglia di stare buttato così davanti alla radio, io sinceramente non ho. Capito, Carlo. Sempre a Olbia c'è Massimiliano. Io, sempre. Ne manca molto? Diciamo per vederla finita un paio d'anni ancora, là, per finirla tutta. E allora, vabbè, là. E ce ne lavora ancora, là. Sì, no, ma poi abbiamo preso anche un grosso lavoro lì a Vicenza, capito, e quindi stiamo facendo un tratto di alta velocità del treno. Ah, cavagavo. Quindi ti devi trasferire dopo che finisci lì? Non lo so, non penso, però tutto può succedere, capito? Quando ci sono questi appalti così, dove c'è lavoro bisogna andare, c'è poco da fare, e lo so che è così. Avanti, caro. E si va dove c'è il lavoro, purtroppo, a seconda di quello che fai devi spostarti e magari rientrare periodo di feste o fine settimana, e così è Massimiliano. Piano piano si fa tutto, però. Certo, vabbè, io faccio lo scavaturista, non è che faccio chissà che cosa. No, quando vai fuori così a Vicenza non è a rientrare ogni fine settimana, no. Ogni tre settimane si rientra. Se sono lavori del genere, immagino che abbiano anche tempi brevi di consegnare i lavori, quindi magari qualche fine settimana si lavora pure lì. Sì, ma infatti si lavora dal lunedì fino alle tre settimane, sabato, domenica, non ce l'è. Purtroppo è così, io lo stesso, sabato e domenica lavoro, non dico tutti, però praticamente in un mese due sabati e due domeniche me le becco sempre. E io idem, la stessa cosa, quando lavoravo c'avevo le domeniche di turno anch'io, ma già il turno mi facevo le domeniche. Purtroppo è lavoro, non c'è niente da fare. Meglio che ce ne sia, e quando non ce ne ci lamentiamo, quando ce n'è troppo ci lamentiamo, quindi va bene così, dai. Questa radio è sempre a posto, va bene, sì, tutto sta facendo bene. Il russo Massimiliano, va benissimo. La Massimiliano, roboante, qua è fondo scala, radio Super 5. Eia, va bene, buono, buono. Questo cos'è? L'S9? Eia già, questo è l'S9, sì. Esce bene, sì, va bene. Sta tutto chiuso, tutto, questi sono quelli da combattimento, li hanno già, ma è tutto a minimo, va. Ma la modulazione è molto forte, capito? È forte lo stesso anche se non ci sono le modifiche. Sì, va, si fa rispettare, va. Sì, certo. Poi quell'apparecchio lì già da quando nasce va bene già, figurati poi se lo modifichi. Lo già, io mi ho visto, sì. Se no ti cancello dall'eredità della radio mia. Attacca il bigliettino sotto, in tutte le radio, perché già lo sai. Adesso a novembre compi gli anni e quindi stai diventando più anzianotto. Attacca già il bigliettino, questo è per Massimiliano, questo è per Massimiliano, ricordatelo. Tutto scritto, non c'è niente, ti preoccupare. È tutto scritto già in cassaforte. Buonasera a tutti sotto, un saluto. Ciao Claudio. Claudio, buonasera. Ciao, continuate, dai. Sto facendo cose, vi sto ascoltando come sempre. Io non l'ho modificato Massimiliano perché andava già bene così con l'apparecchio. Non l'ho mai modificato per quello. A me l'eco che c'ha l'S9 non mi piace, già lo sai. Effetto cattedrale, a me mi piace il radio conto, non venuto in là. Però mi piacciono anche altri tipi di radio, capito? Ma non ti piacciono quelle radio amatoriali, scommetto, vero? Sì che mi piacciono già, ho avuto 10-140. La Giaud, forse la Giaud un be 140, 80, 767, quello in banda, quello grande. No, già ne ho avuto radio amatoriale, mi Claudio già ne sa qualche cosa. E aggiungi 430, 440. Quello me lo stavo dimenticando, 430, 440. E adesso come mai te ne sei sbarazzato, non hai più? E chi l'ha detto non ne ho più? Ah, ne hai? Ma certo che ce l'ho. Ammazza allora, pensavo che non ci avessi più nulla. No, perché tu mi hai sapere che più utilizzi gli apparati, questi apparati qua, la piccola, la 27. È bello burro, dicevi, vai, ammazzando nel valore. Gianni. Vediamo il 140, quello di Claudio, quello bello, la vetrina. Sì, è Claudio. Avanti, capo. Mio Claudio, Gianni, come stai? No, come stai, Claudio. 6 volte te l'ho letto. 6 volte. Peggio per te. Capito? Peggio per te, lui l'ha preso. Come io ho detto, col microfono normale, tutto normale, e poi gli ho procurato un MC60 in buonissime condizioni e si è rifatto tutto. Io sto bene così perché ne ho due, e se no mi riempio la casa normalmente di quella radio lì e non ne giocavano di averle tutte mezzo le balle, quindi quella qua lasciamo perdere, forse me ne pentirò, però come quella penso ce ne siamo poche. Avanti caro, riprendi, io vi ascolto e sì, perché sto facendo cosa? Proprio nel settore radio, perché c'ho il 757, c'ho anche quello, il CAT, 757 GX, 2 CAT, ma si vedeva che cazzo ho messo il DAC e adesso sono veramente in difficoltà, non so dove cazzo metterlo, vabbè. Adesso tolgo un pezzo della linea del 430 e te lo curo in mezzo, non so che ti dica al posto qua, è molto più piccolo perché questa è una cameretta ospiti e quindi ho dovuto mettere la base piccola, però non ci sta più niente. Vabbè, avanti Carletto. vabbè, tu ce l'hai lo spazio già, e ha voglia che ne hai di spazio, e quindi hai anche tante belle radio. Benemera, benemera, niente, io sono qua controllando il forno perché c'è una crostata salata di zucchine, e mia moglie mi ha detto guardala se non si brucia, non l'ho fatta io però, No, io ho finito, mi adesso avevo fatto aspettativa, la patata lo fa solo un po' di verdura come contorno questa notte, è buono. Infatti me ne sono entrato qua e sto studiando dove cacchio mettere, perché c'è la linea completa e prende un bel spazio, un bel lunga, c'è il 430, il PS50, la TD50, la SP430, c'è tutta la linea. Però il dacchio lo devo tenere in funzione, lo devo tenere in funzione, se no mi si rovina, è una bomba, c'è il dacchio, infatti l'ho tutta lucidata, ma lui è Gianni mio, non l'ho mai vista così, così bella, veramente, l'ho tutta lucidata, tutta, smontati tutti i pomelli, smontato tutto, la giornata nuova, nuova, nuova, nuova, perché mi sembra un po' sporca, un po' giallina, la sto abbandonando, adesso è... Il frontale Carle è ancora più lucido di prima. Riprendi Massimiliano, dai, io rimando in quel rischio e finisco qua, se no mi rimane tutto il mese qui. Aspetta, scusa un attimo Massimiliano, prima di ammazzanati Rugabucla, se hai questo problema e non ci sta il DAC, portalo qua, non c'è problema. quella è un casino già, è un casino, vabbè, come vedi preferisco dare i doppioni dei cavo, dei doppioni di altre radio chioma, quella no. Quando la dai a un prezzo troppo elevato, sì, c'è chi la vuole, qualche collezionista me l'ha chiesta, ma cazzo, c'è imballare, spedire questa cosa è un bel pericoloso, un bel grande minchia. Ma è bella, è bella, bella, bella, bella, veramente bella. La strappo un po' abbandonando nel magazzino del Carveri, ho coperta, però l'altra volta sono entrato e ho detto no, avanti, bomba in funzione, l'ho accesa, l'ho lasciata scaldare, ho trovato anche il microfono, quindi dopo la faccio andare un pochino, la più tardi, adesso devo finire qua, se no è tutto mezzo finito. Avanti Massimiliano, come sta andando 430? Anche questo l'ho dato una pulitina, non vorrei aver toccato qualcosa, a due ce l'ho il Michini, bene va Massimiliano. Una bomba, è bene, cosa da chiudere? Allora siamo a due, i vatti sono 20, modulati 50, già va bene. Dipende, poi fai girare, dai, se ci siete ci sentiamo dopo. Ehi, già siamo qua, anche io, qualche altro passaggino, poi era giusto per fare una prova se andava a questo. Anzi, adesso mi giro un attimino dall'altra parte e accendo l'altro, vediamo un po' come va. A proposito Massimiliano, sto usando l'MC60 tuo, prima di dartelo, lo stavo controllando, c'era tutto a posto, bene va come modulazione, impedenza 50 e amplificazione. Va bene, la mia voce è diversa dalla tua, ma è come i soliti che hai, là. Ok, sì, infatti mi ho messo le cuffie, ho provato sia i miei che questo, è nuovo, là. L'ho trovato in perfetto stato, cioè, va bene. Ok ragazzi, cambio per Carlo, fai girare, io rimango in quel rix, finisco qua, dopo ciao. Benissimo la radio, Claudio, la tua voce chiara, bella, pulita e roboante pure. Qua mi arrivi molto forte, siamo vicini in linea d'aria. Niente, prima Gianni stavo dicendo che ho dovuto ridurre i watt, sto uscendo con un watt, con qualche picco positivo, quando parlo vedo che perché ho qualche problemino qua nel condominio, ma hanno detto che sta entrando nelle casse di qualche computer. Ma le casse di qualche computer non è niente. Può essere, aspetta che c'è le bocche francese, può essere, sì, qualche rientro, però, sai, è facile entrare nelle casse di computer, importante la TV, quello è molto importante, però stai attento anche a quello, perché è sempre un mezzo di lavoro, è sempre un mezzo dove ci sono appunto dei computer. contratti da rispettare, quindi non bisogna disturbare nessuno. Vabbè. Speriamo bene, tieni potenza bassa e non attaccare amplificatori e barbari. Va bene. Avanti Gianni, riprendi, fai girare, dai, mando in bianco un attimo, sentiamolo. Ehi, eccola, dopo allora, dai, avanti Massimiliano. Ehi, oh, già, guarda a vedere questa se va bene, questa è un'altra, sempre di quel calibro più o meno. Sì, va benissimo. E che cos'è questa qua? Questo è un Tornado 4005. Quello lì c'è anche il frequenzimetro. No, negativo, questo è della famiglia del Pluto, è uguale al Pluto, tranne che, ah, ti spiego, il Pluto è un doppio finale, questo è un monofinale, l'unica cosa che c'ha il Pluto in più di questo è il frequenzimetro, se no le radio sono praticamente questo, un 3009, preciso identico al 3009, solo che è tutto vero. Ho capito, sì sì. No, già va bene, l'altro lo preferisco comunque, preferisco l'altro, la modulazione è più forte. Quello potrebbe essere anche il microfono, eh. Aspetta. Ora, e così la modulazione è cambiata. Ehi, è più forte. Allora, Vito, dai, basta toccare un pulsantino, Carlo. Benissimo, bella potente. Ah, però l'altra aveva una tonalità più chiara, capito? Preferivo anch'io l'altra. Allora, aspetta che provo a cambiare il microfono, un secondo. Chi è questo basso che non lo sento? Chi è? Ciao Tinotto. Buonasera a tutti. Chi è quello basso che non ascolto? Quello basso è il tuo concorrente. Ma Samoletti da parecchio la Recci. Ciao Tino. Allora Carlo, guarda un po', questo ho cambiato microfono, com'è? Questo va meglio, sì, allora era anche il microfono. Gappa, da te Tino, cambiato, questo è un altro microfono, vedi un po'? Muy bien, va bene, va bene. Ciao Carlo. Ciao, tutto concorrente, il bulldozer. E allora, già, perché oggi però ho fatto poca polvere. Perché ha piovuto. Ma se non piovi, Barò, vabbè che già ci avete le cabine chiuse, no? Vabbè, quelle chiuse a Tino sono senza cabina. E poi mi c'ero una maniera io, capito, perché il mio principale è povero. Va bene, devi fare. Tino, mi senti? E come no, ciao Carlo, per favore ti ascolto. Che sto uscendo con pochi watt e ho sentito, sento uno basso e magari non mi sentivi e pensavo di essere io, capito? No, stavo dicendo a Massimiliano. Nara. Ho detto i cuccioli tutti li hai dati. No, ancora non li trovo perché sono piccoli, però qualcuno ce l'ho prenotato. Ma quelli sono pastori tedeschi puri? No, è un incrocio che con le Rottweiler. Ah, ho capito. Sono belli però, Lo sai che non riesco a distinguere ancora se hanno preso la madre o il padre. E ci sono lo scaldabagno, per cui. No, sono belli, Massimiliano, guardate le foto. Li ho messi tempo fa però, quando erano ancora piccoli. Stanno ancora migliorando. Va bene, perché meno male, il pastore tedesco a Rottweiler, i colori sono quelli, capito? Poi magari c'è quello che prende più alla madre, c'è quello che prende più al padre, capito? Va bene, dai ragazzi, io mi sono trattenuto anche purtroppo. Ci sentiamo le prossimine, mi ha fatto piacere, questo è il Tornado. Saluto a Carlo, saluto a Gianni, saluto a Tino e tutti i vari ascoltori. Io mi assento, ci sentiamo. Ciao ragazzi, buona serata. Riprendi Carlo e fagli là. Aspetta, non so io. Dimmi. Ti ricordi le connessioni del presidente, però anziché 5 a 4? No. Ho due microfoni da provare, ma non mi ricordo le connessioni, che sono state lì a smontare e andare a perderci il tempo, dai. Vabbè, cosa c'ha? Connessioni Galaxy? Non lo so, questa è a 5, devo mettere più 4, oppure un Sarella, non lo so. Connessioni Galaxy, 7 volti della giurista. Aspetta, però mi sa che se c'è a 5, tu c'hai, in più c'hai il down e up, giusto? One e basta, sì, ciao bravo. Quindi devi eliminare il down e up e ti rimangono tre fili, no, non tutti no. Sì, ma sono connessioni Galaxy, tutte e due, capito Massimiliano? Te l'ho già detto a Tino. Sì, sì, però quello che ti voglio dire, allora, se lui deve attaccare il presidente, il down e up sono eliminati, quindi rimangono tre fili, mi hai capito? Esatto, esatto, quindi tre ne deve usare. Sì, e quali? Dipende, i colori non sono tutti uguali, nei cavi, cioè negli aspirali, non sono tutti uguali i colori. Vabbè, la casa di sicuro. Però io non me la ricordo questa cosa, lo sai. Manco io. L'ho chiesto ad Antonello e me l'ha fatto lui sull'MBT4 per il Galaxy e mi sa che ha collegato tre fili. Sì, però vabbè, volevo utilizzare, perlomeno cercare di utilizzare almeno un microfono su Lincoln, ma non so quale mettere, quindi devo farli entrambi, capito? Se devo provare, vabbè. Quando avrò voi devo dire che studierò qualche cosa da ostinato del microfono e pian piano ci lavoro sopra. Allora, pensavo che lo sapevate voi, Andare. Ok, dai, io vi saluto. Dai, ciao Tino, Claudio, Carlo, Gianni e tutti quelli che stanno ascoltando. Ci sentiamo le prossime, vi saluto, ciao ciao. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano. Ehi, va bene Massimiliano, ci si ascolta. Ciao. Oh Claudio. Ehi, c'era qualche cosa che stava parlando sotto? Non lo so, io sto facendo cose qua, dimmi. Allora, ascolta, ci aggiorniamo per sabato perché Gabriele deve giocare con la prima squadra, quindi scendo al limite dopo che accompagna Nicolas, prendo quelle misure e poi faccio a cercare qualche altro paletto e poi però devo andare via ora di pranzo, prima dell'ora di pranzo. Ehi, beh certo, ci aggiorniamo, sì, non c'è problema. Aggiorniamo così almeno facciamo anche quello e poi si vedrà quando torna il materiale. E poi quando arriva il materiale si vede, intanto si piazzano quei faretti, quella roba lì, si finiscono quelle cose, non ti preoccupare. Poi dopo il pranzo, pazienza, siamo veloci. Tutto risparmiato, capito? Rimane in freezer. Bene, dai, fatemi finire qua che sono un mese di calvi, porca miseria, quando il radio iniziano a essere troppo, io l'ho sempre detto, una rottura di palle. Va bene, Carlo riprendi, dai, relixi un attimo per me. Stavo sentendo uno, c'era sotto, ola, ma era molto sotto, non so chi fosse, ma o era roba di propagazione, non lo so. Poi chi si fa sempre, oia, chi c'è, propagazione, fregate, andate avanti con questo. Sempre dolorico. Sì, infatti, lascialo fare, lascia. No, propagazione comunque. Guarda, è che non ho spazio qua, se no avrei provato anche adesso. C'ho questo mobiletto così, mi serve spazio per il sondatore e quant'altro. Dovrei smontare la radio e portarlo da un'altra parte e fare tutte cose, ma non ne voglio, non ne ho orario. Appagappa. Ce l'avevo segnato però io le connessioni, non ho qualche problema, qualche cosa, vai tu e cerca. Prova a guardare su internet a vedere se te le dati. Sì, adesso mi ha dato un'idea, ci stavo già pensando, perché stavo guardando il microfono, tu già cerco le connessioni del presidente con, puoi dire, un runner, capito? Perché se avesse l'altro spinotto avesse quattro cose te l'avrei dette io, però no. ne ha di più, di fili, quindi ne ha uno in più. Perché quello del Galaxy, se ha lo stesso attacco del Galaxy, sono praticamente quelli di sopra sotto e quelli di sotto sopra. Riguardo al Midland, per dire, il Midland ce li ha normali e quello del Galaxy ce li ha invertiti, cioè quelli di sotto sopra e quelli di sopra sotto. Boh. Aspetta che provo a cercare. Comunque anche i colori gruppi sono importanti. Se riesci a individuare il rosso va sul pin 1, il giallo va sul 3, la calza va dove deve andare, fa in un attimo. Se riesci a trovare quello su internet, poi in 448 dovresti riuscire a fare tutto. Vabbè, non è proprio di semplice, perché io la trovo. Come domanda, ho messo connessione il presidente Lincoln comprando il P3, però mi dà un sacco di presidente Lincoln e basta. Sto cercando, vediamo se Però di pioggia se ne è vista un po' stamattina, poi stasera non è affatto. Speriamo riprenda un po' stanotte, così non disturba nessuno. Sì, Mauristano, tutto lagato dove? E in quel versante lì, diciamo, nella zona più sud, Cagliari, ma anche nel versante quello orientale verso Olbia, tutta quella zona lì, e qualche giorno fa anche a Orosei ha fatto un mezzo nubifragio. Da noi per fortuna sta arrivando così piano piano la pioggia. Speriamo che continui così, ma queste cose non se ne era mai visto prima. Anche a Olbia, quando piove a Olbia si allaga tutto. C'era mio cognato che aveva praticamente il garage, che aveva una discesa per scendere il garage. Questa discesa scendeva tutta l'acqua, allagava tutto il garage, ma l'acqua alta, però non si poteva entrare manco a prendere la macchina. Avanti, io ti posso dare una radio 2 segnale 3, non è molto forte, ma con l'antenino suo sì, e ringrazia che arrivi. Dai, va bene, per essere un portatile va bene. Sì, che fossi stato con l'antenna esterna è un conto, ma se l'antenino suo te lo promuovo. È chiaro, qua mi arrivi Santiago 9 radio 4, stai uscendo bene. Aspetta che saluta, però non è che lo ascolto tanto bene, io qua sono un pochino, forse l'unico un po' impedito ad ascoltarlo, perché lo sento quasi in mezzo al VRM. Vabbè, provo un passaggio di nuovo. Oh, ha mandato, chiaro? Sì, ti ha chiesto chi sei. Boh, già, io non lo sento, dai. Vabbè, chiaro, dai, un abbraccio, saluto un intino da questa parte. E da questa parte non arriva bene, Carlo è in alto e ce l'ha vicino, capito? E a me non mi ascolta. Stavo salutando, però diciamo che non ti sente bene, in mezzo al QRM prima ti aveva appena sentito, poi più niente. Addirittura non mi ascolta, caspita. Già, lo so perché ne provando. Ma è un portatile, capito? No, ma forse sei tu che non ascolti a lui, forse ti ascolta, prova. Ti ho da Ruggerito, l'ascolti a Tino Muscolo, con le batterie stai andando. Mi arrivi bene, perché praticamente io tutto il costone di Ossi lo vedo dalla finestra di casa, quindi in linea d'aria siamo vicino, per cui non ho nessun problema a sentirti. Io ti ascolto, già ti ascolto, non ti ascolto fortissimo, ma ti ascolto, dai. Per me limpida la radio, però è basta, dai. ciao, ci sentiamo, dai, se vuoi rientrare siamo qua, avanti Carlo. Ciao Claudio, alle prossime, ci sentiamo magari in una situazione migliore. Comunque qua mi arrivavi bene, senza nessun problema, avanti Tino. Vabbè, dai, saluto, io non lo ascolto, quindi ti saluto Claudio, ma non riesco a aprirti fuori, c'è mezzo a correre, qua un po' alto, non so se mi ascolti tu. No, lui ti ascolta. Vabbè, riprendi. Sì, ci sono, ma io lo sentivo, c'ho anche lo squelch alto, perché sennò mi entrano tutti i rumori di fondo che ci sono, c'è un bel po' di cagnara, ma qua passava tranquillamente, ho lo squelch a metà infatti e ho visto che da me passava bene. Ripeto, non ho ostacoli verso quella zona, io da qua, da casa mia, vedo Orsi, in quella zona lì, Muros è un po' più giù, per cui l'antenna è molto in alto dove abito io, non avevo problemi a sentirlo Claudio. Uscendo sto, sì. Sì. No, mi cazzo il microfono in terra e si è aperto le batterie. I Gianni già stai uscendo. Meno male, perché l'altro mi è caduto in terra e è partita la capsula addirittura. Io in questo microfono microfono, ci ho messo la prolunga perché sennò era troppo corto, mi posso spostare in cucina, arrivo al frigorifero, sul tavolo, posso stare col computer, capito? Perché invece prima era troppo corto ed ero, diciamo, obbligato quasi a stare davanti alla radio. Lo so, bisogna cercare sempre il modo per stare più comodi, dai, ognuno. Io per dire me l'ho messo vicino al letto, mi sdraio, c'ho l'apparecchio vicino al letto, il mio mobile c'ha le ruote, lo avvicino al letto e sono a danno. Io adesso devo chiudere perché ho qualcosa da fare, devo prendere ancora qualche pastiglia e devo avviare un po' la cena di stanotte. Grazie delle quattro chiacchiere, Gianni, Tino, se c'è Claudio in ascolto, l'altro Claudio che era in ascolto prima, insomma un saluto a tutti e ascolto il finale e poi chiudo. Ciao Gianni e Tino. Ciao Carlo, ci sentiamo con correttie e buona cena quando la fai, dai. Io già ci ho avviate già le melanzane e la parmigiana, non faccio altro che scaldarle in forno e via. Ciao Carlo, dai. Sì, ho trovato già, devo starci un pochino sopra, ma ho trovato su internet la soluzione. Ah, ma da solo, provato pure su internet? No, non ho provato il microfono, adesso stavo leggendo il forum e praticamente mi hanno dato, c'è colori che i pin da collegare, per mettere proprio quei microfoni a Lincoln, capito? 4 e 5 sono uguali, quindi soltanto al pin 1 per il Lincoln ci sono saldi il filo giallo, al 2 ci sono saldi a calza e poi al 3 ci saldi o il filo nero oppure il filo rosso del più 5, vabbè, comunque già è tutto spiegato qua, dai. È meglio così, dai. Vabbè, io fino a quando si tratta di attacchi facili già me li faccio io, se no non ho pazienza a stare a cercare a fare. No, mi adesso stavo provando una sorta di amplificatore di antenna, quella del camper, perché è diventato lucivoso e si è mezzo bruciato. Sembra che ci sia una salvatura fatta a freddo, perché tu primi va in tensione, lo mulli e tensione non è passa. Allora ho provato a rifare le salvature, ma a cantumbare vuole cambiare. Ok, mettilo di nuovo, sei più tranquillo, se si stava sciogliendo c'è qualche corte, magari per un coso ti lavo con due. No, c'è presente le antenne preamplificate quelle di casa, no? Che tu le devi alimentare con la 220 e dopodiché loro mandano corrente all'antenna e così via. Questo è 12 volts, però non lo vendono singolarmente, quindi o te ricompri l'antenna oppure è un casino trovarlo lui. Se vai in quei negozi dell'usato, sai che anche i soldi che si alimentatori, io i caricatori cellulari, tutti questi alimentatori, trasformatori così da 12 volts, ce ne sono tanti. No, ma questo è particolare, questo è fatto apposta per quell'antenna lì, non è un caricabatteria oppure un alimentatore di corrente. Tu con l'alimentatore di corrente devi alimentare questa scatoletta qua, dove ha un LED, un transito, non so cosa, praticamente lui va collegato all'antenna del camper, dopo va collegato alla televisione. Ah, ecco. E non si trova la GBC, questi posti così? No, l'ho provato lì a Predaniele, vicino, sai dove vengono le antenne, vicino a Centro Carne, giusto per capirci nel curvone. Lì però mi ha fatto un prezzo, ma tu ti prendo l'antenna, te la lascio a 30 euro, ti prendo l'antenna completa, perché tanto io qui non riesco a farlo col pezzo lì. Ho capito. Ex grassi. Eia, pure. Adesso vediamo, là. Se riesco sotto per ricomporre l'antenna nuova. Eia. Vabbè sì. Prova a vedere a farlo questo attacco, se è giusto come te l'hanno detto, speriamo che sia una cosa che si possa credere, che non siano risoluti questi giocherelloni che prendono in giro. Poi va fatto questo attacco a vedere se va bene. Ma non credo, perché c'è molta risposta, quindi ce ne chiediamo anche che lo sta rispondendo, quindi va bene. No, vabbè, al momento non devo fare niente. E tu invece quando è che devi andare a farti aggiustare? Verso il 25, ho già fatto il pre-ricovero avanti, sono già fatto tutte le analisi, tutto quanto, elettrocardiogramma, lastre, tutte le cose che mi dovevano fare, adesso devo aspettare la chiamata, c'ho già tutta la borsa pronta, e via, sto per partire. Bene, vabbè, speriamo bene, che si risolva più presto così. Però pare che avevi il microfono, se no non puoi usare. Cosa? Sì. Ho detto, però non pare che avevi questi microfoni, se no non li puoi usare. Vabbè, io ci conto, dai, perché questi che vengono a operarmi vengono da fuori, e fanno l'operazione con il robot. E dice che ci sono zero possibilità di sbaglio. Allora, ancora meglio. Chi è che ha detto aia? Va. Propagazione. Vabbè. Fatto vuole sì. Guarda che sono tutti ridotti a dolori. Cerco di non prendere gastro protettori, di non prendere antidolorifici perché fanno male, cazzo, però alla fine non ce la fai più dai dolori futi, devi fare per poter essere tutti venuti con antidolorifici. Immagino, ma è un casotto, avanti, a dolori, sì. Ciucucciù, per carità. Il rifornitore che parla in sassarese. Guarda, io non l'ho visto su internet, io l'ho visto i primi giorni che è uscito, perché ce l'ho qua in qua a casa, ed è Roberto che ha messo la sua voce. Sì, già visto e provato pure. No, invece che c'è un programma dove tu puoi mettere la tua voce, anche a Cagliari l'hanno fatto, anzi forse è stato il primo, è stato quello di Cagliari, poi è stato Roberto, quello che c'è qua dietro casa mia, dai, diciamo, a farlo. Ho capito. Io ho pensato che fosse qualche cosa che avevano fatto loro, mi ha fatto crepare dalle risate. E allora, come dice, o pone là o rifornisce. Aiuta. Aria. Ma cosa ti fa male, lo sai, aia. Avanti, aia, mi ascolti, dove sei, in America, in Inghilterra, dove ti trovi, avanti. Aio, lascia vedere, la fine già. Andiamo giù. Adesso sei carico? Carico fittizio. Andare, 9.30, spaccato. Che la gara. Ora sono sul carico fittizio. Guarda, guarda. Lo vedo. Così è normale. E accompagna. Sì, fondo scala, sì. Infatti mi arrivi bene sempre, anche se non attacco. Ah, va bene. E chi c'ha dolori, da lì, c'è antidolorifico. Che non mi danno un gomito. Ma questo mi sta arrivando 7, 8 neanche. Eh sì, ma per essere fuori arriva bene. Sì, ha carico anche lui. Mi ero seduto perché era dolori. Adesso ho riprovato a risdraiarmi a vedere se sto meglio, ma mi pare che io ya. No, ieri ho passato, no, è schifo. Non mangiato niente, non ho bevuto niente, mi sono coricato una cosa l'altra, mi sono detto quello di acidità, ma non so quello di per carità. Sai cosa devi fare quando è così? Sì. Ma allora, mi hanno detto, o acqua zuccherata, o avevo le cose, non si chiama, quelle boccette eterogermia, ma non mi ha fatto nulla. Allora, se tu provi il latte con temperatura ambiente, ti bevi un po' di latte e te lo fa passare immediatamente. Non lo fa passare, ma poi mi attacca qui sotto. Io per il latte sono... già mi piace, per carità, però mi fa male di corpo. No, io mi prendo il latte quando è così, me l'aveva detto un'amica mia di fare così, guarda, una volta ho visto questa ragazza che si teneva la pancia, io ero in pescheria, e gli ho detto che cosa c'hai? E mi ha detto c'ho un bruciore di stomaco da crepare, e tu vai prenditi un litro di latte, te lo apro io, e poi già glielo dico io che te lo metto io di bello e lo paghi dopo, dai. Ha preso questo latte, se l'ha tutto bevuto, ma è tocca. Sai che mi è passato tutto, un miracolo sembra. Grazie, non lo sapevo, grazie, ma ringraziato, non finiva, poi il giorno dopo è tornata, devo far ringraziare. Dall'altro non lo sapevo già, per essere sincero. Però quindi non riuscivo a dormire, quindi sono alzato. Tra una cosa e l'altra, ho bevuto questa roba qua, non ho fatto niente. Poi mi sono ricoricato e mi faceva male. Poi mi saliva, alla fine mi sono seduto nel divano con una coperta e ho cercato di riposare così perché la sveglia c'aveva le 6, quindi non è che potevo stare lì a girarci intorno. Cosa mangiate? Salsiccia, roba piccante, roba così? No, guarda, ho finito di lavorare la sera, ci abbiamo avuto una birra a rientro, sono arrivato a casa, ho mangiato, come si chiama, pane buttiamo, con mia moglie la stavamo assaggiando, così ci abbiamo avuto una lattina di birra in due, e basta, non ho mangiato altro perché non ne avevo voglia di mangiare. Loro hanno cenato, poi, insomma, sul tardi mi sono collegato, ma non ho mangiato niente. Magari non eri predisposto per la birra, io guarda c'era un periodo che soffrivo di questo brucio di stomaco, ma è stato solo un periodo perché qui ho migliorato. E se bevevo un goccio di birra sembrava che mettessi fuoco dentro. E è venuta un'amica mia che fa l'infermiera professionale e glielo stavo dicendo e mi ha detto ma ascolta tu prendi le pastiglie dai prendi gastroprotettore, io no, ecco dove sbaglio, devi prendere il gastroprotettore, sono le pastiglie, quello io mangiavo poco, cercavo di mangiare in bianco, cosa, niente da fare, anche il sugo in crudo mi faceva così, beh prendo questo gastroprotettore e non ho più avuto nulla. Sì, ma questo gastroprotettore non lo serviva per quando faceva la dieta. No, per le pastiglie che prendo, io prendo le pastiglie per il diabete, per il colesterolo, per la pressione, ne prendo un bel pastiglie. Allora vabbè, lì sì ci sta, io grazie a Dio non ero per me, quindi non ho... però è una cosa che mi è servita così ieri notte. Se non ti tieni il digestivo Antonetto, questa roba qua a portata di mano, quando ti succede te lo prendi. Ma guarda, stavo cercando, volevo prendermi la magnesia anche per farmi digerire, oppure il solvì, però era sempre a mettere acqua dentro lo stomaco, io non volevo, perché già mi sentivo lo stomaco come che avessi bevuto 3 litri di acqua, figurati. C'è il Malox che si mette sotto la lingua ed è un coso, diciamo, ti fa passare la gastrite. Ma speriamo bene, speriamo di riposare tra molto. Già ho riposato la presentata, tanto oggi non ho lavorato, e per migliorare un pochino, e grazie a Dio ho riposato. Ah, per quello non è preso polvere, non perché stava piovendo e ha bagnato la terra, no? Cioè, quando piove non lavora. Sì, stava piovendo, quindi non... Ma la giornata è pagata lo stesso? Integrazione. Ho capito. Gli operai non possono lavorare sotto l'acqua, ma dico chi c'ha la ruspa, chi guida la ruspa non penso che si bagnino. Vabbè, ma secondo quello che stai facendo non va bene lo stesso, fai fango, capito? Quello che hai fatto lo di distruggi praticamente, perché devi scendere, devi camminare, insomma, fai danno al terreno. Dove siete adesso? Sì. Adesso siamo a Valghero, a Monte Riccio mi sembra, Monte Riccio, una cosa del genere si chiama. Ah, campeggia vicino là. Insomma, è un'oretta di viaggio per andare da casa a Porto Torres e poi da Porto Torres a Valghero, perché prendiamo i mezzi, no? Non vai col mezzo tuo? Col mezzo mio vado da qua a Porto Torres. Ah, ecco. Poi da Porto Torres sino a Alghero vai col mezzo della ditta? Sì, sì. Poi rientro e poi niente, prendo la macchina e entro a casa. Cappa. Vabbè. Già c'hai il diesel, tu no? Sì, sì, sì. Vabbè, manca il diesel adesso, la benzina sta costando. E se il gas sta arrivando quasi a un euro? Ma per carità, sì, se continua così viene la guerra civile, perché sono cose che non si possono sopportare queste qua. Una cosa è quando uno ce la fa, ma se non ce la fa è come ci sono tanti anziani che prendono pensioni basse di 400 euro, come fanno a pagare tutta questa luce, tutte queste spese così, non ce la fanno. Ma guarda, io non so, però quando ho dato la spesa è una cosa impressionante, è aumentato tantissimo la cosa anche. Vado al discount ogni volta gli lascio 80 euro prendendo quattro cazzate, 80 euro l'olio costa un bel adesso, è sempre quello di semi soprattutto, l'olio, la pasta tutto aumentato. E io non a me, io lo so se non fatto male una volta, vabbè che ho preso 10 litri di olio d'oliva da una cosa dell'altra, la spesa della settimana sono da pagare mi fa 280 euro, ma sicuri siamo? No, non ci credo. Non sai cosa c'è. Prima se si prendevano 4-5 pizzi ogni volta, perché io a casa non mi sono mai fatto mancare nulla, adesso se ne prendono 3 pizzi, poi quando manca, quando sta mancando lo ricompro. Non ne faccio più provviste grosse. Lo so già, però io non piace andare spesso nei negozi, quindi mi faccio la provvista settimanale, diciamo, là, poi ogni sabato vado, e quindi prendo tutta la roba per tutta la settimana, e niente, mi è venuto pesante. Ma vi ricordate quando con 60 euro che avevamo il carrello? Ma qui guardi, siamo tutti in una stessa barca. Sì, ma tanto loro non è che ci perdono più di tanto, loro aumentano e riescono a rientrarci, capito? Già se li sanno fare i conti loro. Chi ci perde siamo noi consumatori. Ho capito, però noi consumatori se abbiamo sempre lo stesso stipendio poi non basterà mai a andare avanti. E tra aumenti di gasolio e roba a mangiare quant'altro, luce, gas e balle varie, lo stipendio è quello, poi alla fine non è che puoi andare solo a lavorare per niente. Vabbè, certo che è così. Poi subentra che quando fa un lavoro devi aumentare anche tu il prezzo perché devi stare nel cerchio, la gente si rompe le palle anche per fare il lavoro, non è che dice che così tanto prendete, quello è. Beh, ognuno si deve regolare, no? In base al costo della vita, ma adesso dice che qualche cosa la danno sulle 150 euro, mi pare da novembre. Ma non lo so già, sono tutte dicerie. Poi ti danno le 150 euro e ti rimane di paga di detto in più di tasse. Non è quello, per carità. Ma bene, già dai, che due cose che qua, non sono due appunti perché sennò poi mi viene male farlo, che ho la pagina aperta da poc'anzi, non ho fatto niente ancora. Vabbè, ti lascio, ci sentiamo, mi ha fatto piacere fare questo, ci sentiamo, saluto anche tutti gli ascoltatori, tanto so che ce ne sono di Alici di Buco che non entrano. Ciao a tutti, ciao. Ehi, va bene, ciao. Come si diceva, adesso palla col muro.